Gentili ascoltatori, sta per iniziare Uno, Nessuno, 100 Milan, condotto da Uno e Nessuno, con la felice partecipazione di Cicciottello Manera. E mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi all'Elisabetta Fusconi Fan Club. Lo trovate su tutti i migliori social. Uno, nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Com'è che l'hanno chiamato Cicciottello? Cicciottello Manera? Oggi Leonardo Manera forse fa un morbido. Mi fa venire un po' l'orticaria. Rientro a casa, cioè a casa, questa casa aspetta a te. L'ho sentito poco fa, sentito solo via messaggio, perché non sappiamo le condizioni fisiche di Leonardo Manera, dicendo che forse farà una comparsata in vestagliona ovviamente e in pigiama da casa, ma forse a metà regge, poi non so, c'ha la tosse, deve andare dal medico. Vabbè. Noi ma c'è gente che veramente ti strappa gli schiaffi dalle mani. Appunto, e non è Filippo Reggi colui che è protagonista di questo audio del presidente De Luca, e non è Elisabetta Fusconi, oddio, a volte Elisabetta Fusconi, non è Miriam Lucchetti, non è Lorenzo Nespoli. Indovinate voi chi rimane, forse anche il sottoscritto, qui con voi fino alle 11 per parlare di tante tematiche. Con la vostra compagnia e il vostro contributo, se volete, all'800240024, oppure via sms al 349-238-6666. Allora, caro Filippo Aureggi, ora devo prima calmarmi un attimo, respirare fino a 10. Aria inquinata di Milano, perché tra poco devo dire una cosa su Milano, il sindaco e il blocco delle auto previsto per domenica. No, devo calmarmi. Prima parliamo della interessantissima reazione del mondo politico alle elezioni in Emilia-Romagna e Calabria. Enthusiasm about the future. Anche qui, per la verità, devo un po' calmarmi, perché se c'è una cosa brutta del post elezioni è il martedì, perché il lunedì almeno si vivacchia sull'onda del chi ha vinto, chi ha perso, le percentuali. Poi il martedì iniziano i trombonamenti epocali, come ha scritto per esempio oggi Michele Serra sulla Maca di Repubblica. Beh, Michele Serra, sotto il titolo I vecchi e i giovani, ha scritto: decine di maschi incravattati tra i 50 e gli 80 anni, rarissime le donne, tracce di giovani solo nei collegamenti esterni, gremivano l'altra sera e fino a notte fonda quasi tutti i palinsesti per chiacchierare tra loro intorno a un'elezione orientata in modo determinante da ragazze e ragazzi sotto i 30, molti dei quali scesi in piazza e andati ai seggi. Niente dista di più dalle sardine della Roma televisiva dei Vespa, degli opinionisti, dei direttori di giornale che si chiamano tra loro direttore, dei sondaggisti, tutti amici, tutta gente per la quale la differenza tra destra e sinistra è a malapena un'incombenza professionale. Non gliene frega più di tanto e si sente e si vede. Ecco, mi fermo qui nella Maca di Michele Serra per dire i trombonamenti che ci sono sulle il post vittoria o sconfitta per i riposizionamenti della politica. Qualcosa che veramente mi manda ai matti. Vi faccio sentire a questo proposito due audio che riassumono perfettamente, secondo me, la giornata di ieri. Io dico subito che sto dalla parte di Vito Crimi. Sto dalla parte di Vito Crimi, questo per dire a tutti coloro che dicono: ah, il 5 Stelle, accusi 5 Stelle, critichi 5 Stelle. In questo caso ha perfettamente ragione. E non sto dalla parte del premier Giuseppe Conte, che ieri, quando gli hanno chiesto ora che succederà, si è prodotto nella seguente frase. Noi dobbiamo lavorare per contrastare queste destre. Quindi io mi auguro che si possa rinforzare sempre più un ampio fronte. Poi lo chiamate come volete voi. Lo possiamo chiamare progressista, riformista, alternativo alle destre, non lo so. Però sicuramente un ampio fronte dove possono trovare posto e possano sentirsi a proprio agio tutte le forze, pur con diverse sensibilità, che però vogliono condurre una politica alternativa a queste destre. Sì, va bene. Abbiamo capito. Alternativa a queste destre, secondo La Verità, Conte addirittura sta pensando a allargare il governo a Forza Italia. Vabbè, adesso non lo so, cioè, o quelli che sono usciti da Forza Italia, quelli che vogliono uscire da Forza Italia, non ho capito. Però su questo, ecco, devo dire, Vito Crimi, secondo me, ha risposto bene. Vito Crimi è quello che ha sostituito Di Maio, il reggente. Se io le dico che uno fa un fronte per sconfiggere le destre, ok, ma io da cittadino mi chiederei, sì, ma a me? A me ci hai pensato? O stai lavorando solo per sconfiggere l'altro? Tutti i giorni il cittadino non gliene frega niente se fai il fronte contro la destra. Interessa se mi aumenti il lavoro, se mi riduci le tasse, allora bravo! Sì che va bene. Ma che ci frega del campo, del fronte, del progressismo, del riformismo? Cioè, sono tutte cose importanti di politica, per carità. La politica orienta l'economia, orienta le riforme. Ma dici, Conte, cosa vuoi fare sulla riforma dell'IRPEF e dell'IVA? Sulle tasse, cosa vuoi fare? Com'è che rilanci il lavoro per quelli che percepiscono il reddito di cittadinanza? Di welfare, che cosa facciamo sul welfare? La sostenibilità, lo sviluppo dell'energia green, la prescrizione, va bene, sì, parlateci anche di prescrizione, è fondamentale, ma per capire se sarà una giustizia più veloce, oltre che certa, o se rimarrà una giustizia alle calende greche. Ecco, questo il cittadino vorrebbe capirlo. Cosa ne viene? Quando è che togliete le accise sulla benzina per la guerra dell'Abissinia e per la tragedia del Vajont? Queste cose qui, il fronte progressista compatto, il campo, ma al cittadino del dopo elezioni dell'Emilia Romagna e della Calabria, che cosa viene in tasca? Non viene in tasca che vogliamo guadagnare di più, ma cosa concretamente nella nostra vita cambia? Ce lo volete spiegare? Ce lo volete spiegare con delle riforme concrete? Ora parte l'agenda 3 di governo. Va bene, apriamo l'agenda, sfogliamo l'agenda e vediamo che succederà. Siamo tutti in fibrillazione e vibrante attesa. Ma chi se ne frega? Sì, del fronte, del campo progressista. Sono calmo, tranquillo. Milano. Allora, Milano. Il sindaco Sala ha annunciato che oggi svelerà con quali orari e dettagli, ma si va verso il blocco delle auto domenica. Ora, sindaco Sala, di cui dico sempre cose per lo più positive, eccetera. C'è Elisabetta Fusconi che sta cercando un'incursione. No, non lo so. Allora, sindaco Sala, ho dei problemi personali. È vero, antepongo dei problemi personali. Domenica mi serve l'auto, ma è fondamentale. C'è Mattia che deve giocare a basket. Io devo rientrare dal Piemonte e penso di non poterlo fare entro le 18. Il blocco delle auto, non lo dico io, lo dicono vari scienziati, abbiamo avuto la responsabile della CNR, dello smog, sono dei palliativi, non servono a nulla se non a mettere a posto la coscienza dei sindaci che li fanno, ma non serve a nulla concretamente. È come prendere veramente... A me sta iniziando ad arrivare l'orticaria, Lino. Sì. Sala, sarà lo smog. Buongiorno, Sala. Elisabetta Fusconi, cosa vuoi? Intanto perdonalo perché non sa quello che dice. Sì, ma tu non sei svizzera. Scusa. Sono svizzera, ma io faccio parte di quel... Ma a parte che non sempre, ahimè, ma faccio parte di quella compagine umana che sogna città senza auto, sì. Intanto. E vai a vivere nel Far West, nel 1780, vanno in calesse con i cavalli... che tu abbia il problemino che Mattia devi portarlo comodamente sulla tua auto. No, ti faccio presente. È un problema gravissimo, guarda, dopo te lo spiego. Alino Milan, ti faccio presente dal sito della Regione Lombardia, sì? Che tra le varie deroghe ce n'è, sì, veramente di innumerevoli, sì, basta non essere pigrotti e leggerle. No, c'è la possibilità del carpooling. Sei derogato, per cui smettila di fare il sociopatico. Il carpooling. Dai un passaggio almeno a tre persone e tu potrai comodamente portare tuo figlio in auto. Il carpooling. No, io domenica sono tra l'altro in Piemonte, vado a trovare Farinetti, mi fa molto piacere, e poi devo tornare, non so come fare, forse tornerò, devo tornare dopo le 18, dopo devo stare starò in perifa di Milano fin dalle 2 alle 18, ti sto dicendo, prima di entrare. Imbarca tre persone, socializza, chiacchiera, smettila di lamentarti. Se c'è qualcuno che cerca un passaggio per Milano dal Piemonte domenica attorno alle 2, se fanno l'autostop, è l'unico modo per entrare a Milano che ho, perché il sindaco Sala ha deciso che ci sarà il blocco. Diversamente dell'auto. Cambia l'automobilina e datti all'auto elettrica. Tanto Fusconi va in giro con la targa svizzera. Si sa, sono queste persone, ma non è che la targa svizzera... Beh, adesso non è che dobbiamo parlare di coerenza qua, non è il luogo. Ecco appunto, vai a lavorare. Va bene, se pensate invece che il blocco sia giusto, ditemelo. Cosa ne pensate di politica? Anzi, voglio lanciare questo tema prima del primo ospite. Ditemi. Qual è secondo voi, al di là del campo progressista, del fronte contro le destre, cosa vorreste voi di concreto come prima riforma da parte del governo? Ce lo dite all'800240024, che cosa? Le tasse, il lavoro, la giustizia, chiamateci, che così forniamo un'agenda pratica e concreta al governo, mica le discussioni sul fronte progressista e il campo riformista. Allora, signori, 9-18 minuti. Ieri era la giornata della memoria. In questi giorni ci sono stati degli episodi gravissimi, lo dico io, gravissimi. Tre volte lo dico, gravissimi. Lo dico volutamente con questo tono, per chiunque pensasse invece che questi episodi possano essere derubricati a ragazzate, a stupidate e quant'altro. Di cosa sto parlando? Ieri ce ne sono stati due in un bar Arezzato in provincia di Brescia, gestito da una italiana di origine marocchina. Gli hanno sfondato la vetrina e gli hanno fatto una svastica. Ieri a Torino, una cittadina italiana che si è trovata la scritta "crepa sporca ebrea" sull'androne di casa, e racconta la stampa: ora vado a casa a vedere Schindler's List nuovamente, forse qualche ignorante dovrebbe guardarlo con me. E poi qualche giorno fa a Mondovì, e voglio salutare il protagonista di questa storia, suo malgrado di questa storia, Aldo Rolfi. Buongiorno Aldo e grazie di essere qui. Buongiorno a tutti, buongiorno ai radioascoltatori, a lei signor Milan, lei, stavo ascoltando. Lei che è il figlio, magari poi lo chiederò anche a lei poi cosa vorrebbe concretamente da questa politica. Sì. Lei è il figlio di Lidia, una partigiana che fu deportata a Ravensbrück, era il 1944, staffetta partigiana, ed è comparsa proprio nella casa, fuori, sul muro, questa frase terribile che veniva utilizzata... Sì. Proprio dai nazisti per indicare dove vivevano gli ebrei. Juden hier. Intanto vi si è chiesto quante volte in questi giorni come sia stata possibile questa degenerazione? Ma io mi sono chiesto innanzitutto perché oggi. Indubbiamente, guardi, io davanti agli occhi... proprio il computer che dà notizie stamattina delle scritte apparse che lei ha nominato prima, lo sporco ebreo, l'episodio di Torino, di Brescia, di Noto, ma di tutta Europa. Ma mi sono chiesto perché. Allora, io non svolgo politica attiva, non l'ho mai fatta, non mi sono mai candidato, non sono uomo pubblico, non sono un felice pensionato che... studio la storia, continuo a studiare il periodo del Novecento che ci ha portato a questa situazione, Seconda Guerra Mondiale, toni aspri, mai come in questo periodo si è parlato di toni. Però mi chiedo perché a distanza di tanti anni dalla scomparsa di mia mamma, mm-hmm. e come dicevo prima, io intervengo sui giornali una o due volte l'anno proprio soltanto in relazione a questo. Giorno della memoria invece che il 25 aprile o invece di qualche convegno, congresso, incontro con i ragazzi. Mi piacerebbe pensare a un episodio a sé stante, una ragazzata, perché poi se andiamo a ben vedere, ho letto i giornali stamattina, anche i 18, mi pare, vado a memoria, i 18 writers fermati per la strada con bombolette, le mascherine. Sì. C'è questa volontà, non lo so, forse di protagonismo, forse di fare un qualche cosa. Veramente è una cosa che non riesco a capire. Intanto io, va bene, lei ha detto la premessa, non faccio politica, non è che se anche lei facesse tutte queste attività, come dire, no, secondo me, ecco, non bisogna andare neanche a cercare minimamente nelle pieghe delle vite delle persone una qualsivoglia attività che possa giustificare questo tipo di reazione, nel senso che se lei facesse anche politica attiva, sì, ci potrebbe essere la critica, l'accusa, sì, certo, la critica anche aspra, questo va bene, ma arrivare a scrivere come scriveva la Gestapo, Judenhir, proprio... Lei dice una ragazzata, per carità, ci può stare, eh? Ci può stare che siano dei ragazzi che... sa, sono passati in fondo 80 anni, no? Quindi sì, 75 anni, sì, magari il senso della memoria qualcuno non gliel'ha trasmesso, no? Il senso, sì. Ma è proprio questo. Io, contrariamente a tutte le altre volte che ho scritto per il giorno della memoria, dove esprimevo con mie parole i miei concetti, i miei pensieri, le mie sensazioni, ma ero io a scrivere e io sono, come altri, un testimone dei testimoni, non sono stato nei lager, ho respirato aria di lager tutta la vita con mia mamma e maggiormente ancora quando veniva a trovarci Primo Levi, che ha mangiato e dormito a casa nostra molte volte, però non riesco veramente a capirlo. Sì. Lei dice io non faccio politica attiva. Sì, se magari l'avessi fatta avrei potuto trovare, come dire, un qualche aggancio, un qualche messaggio trasversale, qualche cosa, ma veramente io esisto due volte l'anno, tre volte l'anno. Esatto. Quindi però non come si... le dicevo, sì, sì, mi scusi. Sì. Come le dicevo, io questa volta anziché parlare in prima persona ho voluto far parlare una testimone diretta, sì che non c'è più, ma che aveva lasciato tantissime testimonianze. Due di queste, in particolare, un'intervista a TG2 Dossier del metà anni 80 e una delle ultime del 1993, dove alla fine della mia introduzione io mi sono... non dico scagliato, ma insomma mi sono augurato che si partisse dalla scuola, dall'insegnamento, sì, sì, e terminavo proprio le ultime quattro righe con un episodio che mi è successo qualche anno fa in un liceo classico scientifico del Nord Piemonte, dove alla fine di un incontro con i ragazzi, che è stato meraviglioso, veramente bello, sì, ragazzi anche intelligenti, anche preparati, una professoressa mi ha avvicinato ringraziandomi per l'intervento, mi ha detto: ma sa, io ho sempre avuto una grande curiosità da insegnante, da professoressa, ma come erano organizzate le scuole ad Auschwitz? Incredibile. Faccio seguire 3 secondi di silenzio perché è una se non 30, certo. Ecco, appunto, è una cosa incredibile. Ecco, però incredibile. Le vorrei chiedere questo, Aldo Rolfi. Mi ha colpito sentire il procuratore o comunque dalla procura una frase qualche giorno fa a dire: siamo presto una svolta. Credo di aver visto un titolo così. Lei avrà, come dire, qualche informazione in più con la procura, avrà qualche contatto. Cioè, davvero non si riesce a capire chi possa, nella notte, essere arrivata a fare questa scritta? Non lo so, la mia porta d'ingresso ha una telecamera molto grande, di quella a 360 gradi, a 30-40 metri, non la inquadra forse proprio direttamente, ma insomma se qualche figura, qualche macchina fosse transitata, penso che da lì si potrebbe risalire. Qualcuno sarà transitato per forza per scrivere questa frase. Sicuramente sì, ma io non ho ancora notizie, non lo so. Lei ha detto, credo, in un'intervista come avrebbe reagito sua madre. Ha detto si sarebbe fatta una feroce risata. Perché? Una grassa risata, sì, questo l'ho ripetuto anche ieri alla fiaccolata. Perché una grassa risata? Una grassa risata data anche il tipo che era mia madre. Mia madre era una per cui ogni giorno seguito alla liberazione è stato un giorno guadagnato. Per cui dice, per me... tutte queste manifestazioni qui denotano soltanto una cosa sola, che è l'ignoranza. E l'ignoranza da dove parte? Parte dalla scuola. Per cui se noi non torniamo a informare i nostri ragazzi, fargli studiare la storia anziché toglierla dalla maturità, hanno tolto anche la materia geografia, la vogliono sostituire con la geostoria. Ma cos'è la geostoria? Posso capire la geoeconomia, la geopolitica, ma la geostoria? Quindi, se io mi voglio informare, oggi ho tutti i mezzi per farlo, ma lo deve fare la scuola, che è preposta a questo. Sì, sì. In ogni caso, facciamo così, Aldo Rolfi, quando e se ci saranno delle svolte, io spero presto, spero che ci siano delle immagini, ci risentiremo. Intanto mi sembra di poter dire davvero che di fronte al tentativo di sminuire, di dire certo, e potrebbero anche essere delle ragazzate, ecco, mettiamolo così tra virgolette, però leggere crepa sporca ebrea, leggere Judenir, leggere e vedere le svastiche dentro un bar di una italiana di origine marocchina in provincia di Brescia fa molto male e vanno rimarcate queste notizie, va data voce per dire ecco, questo è il vero fronte, se si vuole, antidestre, altro che lo dico, supercazzole post-elettorali. Ringrazio davvero Aldo Rolfi per essere stato qui con noi. Ringrazio anche tutti gli ascoltatori che mi vengono incontro per la problematica di domenica, che avrò sicuramente. Pensa se uno già con tutte le problematiche, crescere due figli da solo, la scuola, ma io adesso devo già pensare, e siamo a martedì, di come organizzare la mia domenica, perché il sindaco mette il blocco delle auto. Ringrazio l'ascoltatore che dice ti offro la mia macchina, la mia Tesla per andare in giro, ringrazio chi mi dice da Novara, tornando dal Piemonte, fermati a mangiare una paniscia a Novara da me e poi dopo torni dopo le 18, sì lo so, ma ho due figli da gestire. Ringrazio a tutti coloro che mi suggeriscono anche prendi la macchina di Fusconi, ma in realtà anche la sua non può circolare. Ringrazio tutti quanti voi perché siete generosi, siete un pubblico affettuoso, mi fornite delle soluzioni pratiche e concrete. Sta di fatto che insomma devo occupare del tempo da qui a domenica per organizzare la mia domenica, il carpooling. Quella mi suggerisce il carpooling, porcaccia, il carpooling. Io dovrei cattare tre sconosciuti per strada, portarli in giro per il Piemonte un giorno e mezzo, poi tornare con me a Milano per fare il carpooling, poi li tornano a Milano con me, poi li guardo e dico beh, avete fatto il carpooling con me, adesso tornatevene pure in Piemonte, no, dove siete voi, grazie, arrivederci. Ma tu pensi, vabbè. Arriviamo all'entopede Manera tra un attimo. Ma chi se ne frega? Uno, nessuno, 100 Milan. Domenica, guarda qua, ci sarà blocco del traffico. Ecco, sto scrivendo nella chat della squadra di basket, voglio gettare nel panico almeno un 40-50 persone, 40 genitori, eccolo qua, invio, perfetto, va bene. Fusconi radical snob, questo è il messaggio che più condivido di quello che è arrivato. Sono un po' inquieto nell'approcciarmi ora a Vestagliona Leonardo Manera, che forse è in collegamento con noi. Casa. Buongiorno. Buongiorno. Oddio. Non è che mi invento le cose, cioè, se non vengo vuol dire che sono impossibilitato. Oggi anzi andrò a fare il certificato medico. Sento già dei coronavirus che si spargono nell'aria. Ma quando lavori? Questo... no, c'è poco quando lavori, dovrei stare fermo per un mese e mezzo, qui, barricato. Due mesi, barricato in casa, altro che coronavirus, quindi manera virus è molto peggio, non so chi è quel maledetto che me l'ha dato, no. Spero che bruci all'inferno, qualcuno me l'ha trasmesso, probabilmente in metropolitana, qualche maledetto cane che in metropolitana lì. Forse qualche barre, bambino, probabilmente... sai che i bambini sono un po' più portatori. Sì, bambini che poi dovrebbero imparare a lavarsi le mani sempre, no, se le lavano così ogni tanto quando il genitore prima di pranzo, cena, dice lavati le mani, no? Il bambino responsabile doveva passare la vita a lavarsi le mani, così almeno non trasmette i virus agli adulti, ecco. Quel dovresti commentare. Cane maledetto. Ecco, appunto, ci mancava un finale. Come stai? Ci sei mancato tantissimo, Leonardo. Ma adesso oggi vado alle ore 12 vado dalla dottoressa. Ah, ecco. E spero che... auscultare. Sì, spero che mi faccia un bel certificato medico per i prossimi due mesi. Perché poi il problema di chi fa il mio lavoro qual è? Qual è? A parte qui la radio stamattina in generale, ma dico, quando uno deve andare a fare le serate, no? Deve andare. Tipo sabato scorso. Tipo sabato scorso che non sono potuto andare e abbiamo trovato una sostituzione. Però sabato, ad esempio, devo andare dall'altra parte. Stasera avrei delle prove e non è che ti obbligano ad andare. Mica come quelli della radio. Ti obbligano radio ad andare, a presenziare, a essere fisicamente... Cioè, uno potrebbe morire anche, no? Stare sul punto di morte. Ma dai, vieni che c'è il teatro che hanno prenotato. Sì, ma io sto morendo, non ho voglia. Ma dopo come facciamo? Saranno ben cazzi tuoi. Io sto morendo qui, che non riesco a muovermi di casa. Stanotte non ho chiuso occhio, perché avevo una narice completamente tappata. E poi, completamente, io quando ho una narice completamente tappata non riesco a dormire. Poi continuavo a catarro. Però vieni, la gente ha pagato il biglietto. Vieni, ma non posso, non ho voce. Senza voce non si può fare. Fai uno sforzo. Vieni. Fai il mimo. Non si può. Invece gli altri, uno va e non dice ho certificato, non vengo. Invece il mio lavoro, no, devi andare per forza. Poi di quello che succede il giorno dopo, ne frega niente a nessuno. Sei morto, pazienza. L'importante è che tu faccia quella serata. Vabbè. Non importa. Puoi anche morire, tanto poi. Con colpa dei bambini che infetti. Perché poi nei bambini passa prima il virus, no? Due giorni, certo. Invece dopo i 50 te lo porti avanti per sei mesi. Io ho 52 anni, voglio anche dire al signor di prima che non sono cicciottello, anzi per avere 52 anni li porto anche bene. È vero, sono molto più cicciottello io, questo devo dire. Però va bene, basta, hai finito questo sfogo. Stamattina mi sono spaventato quando mi sono visto allo specchio. Sì. Perché non avendo chiuso occhio tutta la notte mi è venuta una borsa sotto gli occhi. Solo una. In mezzo ai due occhi, no? Dalla parte dove avevo il naso tappato. Non so come mai, si vede che un po' di muco è andato ad accumularsi sotto l'occhio e mi è creato un borsone di muco sotto l'occhio. È stupendo. Senti un po', Leonardo, vorrei darti altre belle notizie. Allora, domenica c'è il blocco del traffico. Sì, ho sentito. A Milano, tanto tu sei barricato, adesso ti fai fare 50 giorni. No, sabato sera avrei in teoria una serata da fare, ma non so se ce la farò. Ma dove? Dottoressa, dove? A Vignola. Vignola, in che teatro? Teatro di Vignola. Il teatro di Vignola. A mangiare le ciliegie? No, non è molto stagione. Va a Vignola. Guardo. Ma non so se andrò, devo vedere come va a finire qui con la storia. Ecco, se rimango vivo fino a sabato. Se muoio, si può mandare la mia bara sul palco. La gente ha prenotato, vede la bara e ci crede, perché altrimenti non credono che il comico stia male. No? Devi mandare la bara. Un comico è nato per far ridere, non può star male, non può essere in difficoltà. Vabbè. Potresti farlo però come ultimo gesto, così d'avanguardismo, non so, di... Ti mando la bara, sì sì, potrebbe essere che manderò la mia bara sul palco. Va bene ragazzi, però qua c'è grande solidarietà, sei il nostro eroe, sei anche sei una mezza sega, Walter ci scrive, capra, c'è chi dice che esiste il Vixines. Sì, c'è... ma non è solo questo, vabbè, lascia stare anche lui, il Vixines, il fenomeno che mi vuole spiegare. C'è chi dice, c'è chi ti suggerisce che sarai al teatro Cantelli, forse. In questo caso mettiamo 10 forse sabato sera a Vignola, chi lo sa. Intanto sentiamo Gianni da Perugia, che cosa ha da dirci. Gianni, buongiorno. Buongiorno a lei, dottore. Eccoci. Trasmissione la che seguo ogni mattina. Allora, concordo pienamente con ciò che ha detto lei e alcuni gentili ascoltatori. Su cosa? Sul problema di Conte e di quant'altro, quindi argomento politico. La politica, bene. Lei cosa vorrebbe come prima riforma? Dai. Ma io mi chiedo solamente perché il nostro Presidente della Repubblica, che è il garante di tutto l'andamento politico, sì, vedendo questa situazione, non interviene. Cioè, quello che mi fa strano è che tutti gli italiani si sono accorti e si lamentano di una realtà politica attuale. Non interviene in che senso? Cioè come dovrebbe intervenire? Signori, benissimo, ormai le 5 Stelle non c'è più. Come si fa a governare un paese con con l'opposizione, che è quella che in pratica oggi conta, e Mattarella continua a guardare, non interviene, non... Ma Gianni, però guardi, non sono io a dover fare lezioni, per carità, di diritto costituzionale, però lo sa meglio di me anche lei, le maggioranze si formano in Parlamento, laddove e fin tanto che ci sono i voti per sostenere il governo in Parlamento, fin tanto che c'è una maggioranza parlamentare, cioè non è che la maggioranza parlamentare cambia in base al voto delle elezioni dell'Emilia Romagna o della Calabria, se uno ha preso il 5% o il 10%. Se domani in Parlamento, che ne so, 20 o 10, adesso i numeri precisi non li so per cambiare le maggioranze, 10 senatori del Movimento 5 Stelle dicono ce ne andiamo via, passiamo al gruppo misto, e quindi non ci sono più, non c'è una tecnicamente una maggioranza parlamentare, allora il governo, come dire, si andrà dal Presidente della Repubblica a dire non abbiamo più una maggioranza parlamentare. Fino a quel momento i numeri ci sono in Parlamento, Gianni. Sono pienamente d'accordo. E allora Mattarella, come dire, non è che Mattarella in questo è l'unico che proprio non c'entra nulla, è il Presidente della Repubblica, cioè, nel senso che non c'entra nulla, che non può fare nulla, cioè registra che in questo momento al 28, quanti ne abbiamo, di gennaio, la maggioranza in Parlamento c'è. Quindi auspico che quelli che sono i deputati che vedano capiscano che è ora di Vabbè, questa è un'altra questione, cioè lei auspica che dopo questo voto che ha sancito una sconfitta, seppure nella regione del Movimento 5 Stelle, come dire, si formino, qualcuno in Parlamento dica abbandoniamo il Movimento. Ma guardi, oggi c'è già scritto infatti che quella famosa frase di Conte che guarda il nuovo gruppo trasformista, qualcuno pensa che Conte vorrebbe imbarcare, per evitare queste uscite del 5 Stelle, alcuni fuoriusciti da Forza Italia, e quindi cambiare la maggioranza parlamentare. Chissà tutte queste cose come arrivano all'orecchio un po' ovattato di Leonardo Lentopedi. Tuso, l'orecchio ottuso. Guarda qua, Leonardo, c'è un messaggio per te. Dai, Leo, Alberto da Vignola, ti vogliamo anche mal ridotto. Alberto, sì, il problema è che una volta mi obbligarono, siccome non credevano che io stessi male alcuni anni fa, sì, mi obbligarono ad andare a Roma a fare uno spettacolo. Io ero completamente afono, ma veramente senza un briciolo di voce. Sono salito sul palco, tipo adesso la neo eletta governatrice della Calabria. La Santelli, no? Sì, sei arrivato, esatto, e hai detto niente. Buonasera a tutti, benvenuti. Così. Allora l'organizzatore si è reso conto che io non stavo dicendo bugie e mi ha detto ma non hai fatto lo spettacolo? Ho detto ma per forza te l'avevo detto che non avevo voce. Ma io non ti credevo, grazie. Fine dello spettacolo. Andrà a finire. Fine dello spettacolo. Manera, vai a mangiare da mio suocero, resuscita i morti. Non lo so dove sia. Intanto c'è Domenico da Mantova. Buongiorno Domenico. Buongiorno a voi. Prego. In merito a questa mattina al tuo sfogo su entrambe le cose, sulle macchine che non devono circolare, che quella secondo me è una cagata fotonica. Sono d'accordissimo con te. Sull'altra cosa invece un po' meno d'accordo. La prima riforma da fare in Italia oggi è quella, è la riforma etica morale. Cosa intendo per etica morale? La prima devono svegliarsi. La prima cosa da capire è se per caso in Italia, e per cosa intendo per morale e per etica, se per caso in Italia oggi, domani mattina un decreto legge lo possono fare subito, dovessero eliminare immediatamente tutte le macchinette dei bar, e te lo dice e te lo sta dicendo un giocatore compulsivo che non gioca da 2 anni e 4 mesi. Cioè, quella è la prima cosa. Le macchinette... La prima cosa da fare è da togliere le macchinette dai bar. Devono togliere subito, immediatamente, tutti i giochi che ci sono in giro. Devono permettere alla gente di non buttare via i soldi, Domenico, ma investire i soldi nella... nell'economia reale, perché è un problema miliardi di euro in un anno. È un problema, e tra l'altro, se dici da ex giocatore compulsivo, spero davvero ex, insomma, lo senti proprio sulla tua pelle. Non so se viene percepito come il primo problema per tutti gli italiani, ma insomma è una cosa concreta, perché Leonardo ha iniziato a dire e a chiedere che cosa vorreste che venisse fatto come prima cosa. Ti ricordi quando facevamo la prima com'è che l'avevamo titolata? Una bella campagna che è finita lì, potremmo rilanciarla. Nel nulla. No, perché quando ho sentito fare tutti i discorsi su un nuovo centro riformista, progressista, giustamente Vito Crimi, devo dire, ha detto va bene il centro, ma ai cittadini che cosa gliene frega? Cioè, se non gli parli di tasse, lavoro, giustizia, di cose concrete. Adesso iniziamo con i discorsi sul centro riformista. Ma Conte non era l'avvocato del popolo? Sì. Come mai adesso fa questi discorsi? Tu che sei giornalista, spiegami. Non lo so, io so che in questi casi c'è sempre un ottimo traffico che viene a salvarti. Quindi annuncialo te con questa voce bella suadente. Traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Il blocco piace soltanto alle famiglie del centro, snob e radical che Sala hanno votato. Fa molta immagine Greta Thunberg, come la Fusconi, è quello il problema. Lei in Svizzera sogna una città senza auto. Bravo, e andiamo bravo, tutti quanti bravo. Col parapendio a sì, muoverci. Bravo, lei col parapendio, noi sfigati a arrabattarci, lei col carpooling, con degli, ovviamente degli hippie, rasta, così, con cui discutere, no? Nelle ultime elezioni in Mozambico, in Angola, e noi a piedi a consumare le suole delle scarpe, lei in parapendio, certo, si farà calare dalla Torre Galfa col parapendio. Che bella Milano, che poi per lei Milano sono la cerchia, la prima cerchia. Già se abiti fuori dalla prima cerchia sei uno sfigato, che non sta a Milano, non sta a Milano, sei proprio nella... Volerà più in tutta Milano o solo nella prima cerchia? Cosa? Non si circolerà in tutta Milano o solo nella prima cerchia? I dettagli domenica verranno spiegati oggi dal sindaco Sala, però ha preannunciato che vista l'aria di Milano non può fare altrimenti. Invece si devono fare 100.000 cose altrimentose, tranne quella del bloccare il traffico, che notoriamente non serve a nulla. È come se adesso vai da Leonardo Manera e gli dai, come dire, una zollettina di zucchero. Ti dice: no, dammi, non so, un qualcosa. Dei belli antibiotici pesanti. Esatto. Vabbè. Leonardo, lascia stare, guarda, che da qui a domenica dovrò impazzire a organizzare questa cosa. Lascia fare, vai, dai. Comunque, dopo mesi di estenuante campagna elettorale per due, ma in pratica per una regione, finalmente si è votato. A mia memoria mai c'era stata una campagna elettorale così lunga, invadente, invasiva per una regione, che con tutto rispetto è pur sempre una regione, quindi non è l'elezione principale che si possa immaginare. Come se per una partita di Europa League invece che di Champions League, ecco, per una partita di Europa League si mobilitassero tutte le visioni, come se per un amorino estivo si consumassero fiori di lacrime, come se per una normale influenza e non per il coronavirus si mettessero in quarantena intere città. Insomma, come la sensazione che per queste elezioni regionali si sia un po' esagerato. Per non parlare della Calabria, che è sempre rimasta in ombra, tutta la luce sull'Emilia Romagna, niente o poco sulla Calabria. Come se un padre o una madre dedicassero tutta l'attenzione a un figlio e trascurassero completamente l'altro. Probabilmente a tutti in questo periodo è venuta voglia di andare a votare in Emilia Romagna. Anche qualche calabrese probabilmente ha avuto voglia di andare a votare in Emilia Romagna. Forse qualche calabrese ha anche cambiato residenza per votare in Emilia Romagna. Il che è un po' paradossale, perché la Calabria è una regione probabilmente con più problemi dell'Emilia Romagna, quindi avrebbe meritato più attenzione. Come se un medico dedicasse più attenzione a un raffreddore che a una bronchite. Ma è così, perché in fondo non interessa tanto la malattia, cioè raffreddore o bronchite, quanto il medico che la deve curare, cioè il politico che se ne dovrà occupare. Quindi non interessano tanto i problemi degli elettori attivi, cioè i cittadini, ma il successo degli elettori passivi, cioè i politici. Come se quando un medico va a visitare l'ammalato ci si interessasse più del medico che dell'ammalato. Vabbè, ma si sa che è così in Italia. Però io voglio suggerire a tutti gli elettori per le prossime elezioni di comportarsi quando si va a votare come si dovrebbe fare quando si va a giocare al casinò. Quando si va a giocare al casinò, ognuno spera di fare una vincita che gli permetta di cambiare la vita, cosa che poi puntualmente non succede. Di solito quando si vince una piccola somma la si rigioca puntando a una vincita ancora maggiore. Invece poi di regola si perde quello che si era vinto e si torna a casa con le pive nel sacco e col portafogli alleggerito. Invece sarebbe saggio accontentarsi di una vincita, per esempio, del 10% rispetto al capitale investito. Anche perché non c'è nessun investimento normale che permette una rendita del 10%. Invece no, noi dal casinò pretendiamo di andare una volta e poi vivere di rendita per sempre. Sbagliato, il 10% rispetto al capitale investito sarebbe ottimo, sufficiente almeno. E così, a mio parere, dovremmo fare con la politica. Quando si va a votare, dai nuovi eletti non dovremmo aspettarci la soluzione di tutti i problemi, che non avverrà mai, se non nel mondo delle favole. Dovremmo aspettarci un miglioramento del 10% rispetto a come era prima, lo stesso atteggiamento appunto che sarebbe corretto quando andiamo al casinò. D'altra parte, tra politica e casinò ci sono molte analogie, ci sono molti soldi che girano, c'è sempre il sospetto che non sia tutto regolare e insomma c'è anche un certo giro di prostituzione. Insomma, la prossima volta decidete voi se andare a votare oppure se fare una bella gita al casinò, in entrambi i casi con minime aspettative, talvolta pari allo zero. Mi piace, bravo, questo mio parallelo. Bravo, bravo. Politica casinò. Molto, molto bello, molto, molto bello. Oh, devo dire che c'è un articolo, te l'avrei sottoposto qui fisicamente, ma non ci sei, ti cerco, ma non ci sei, che riguarda la rabbia. Sai che ci sono sempre più gesti di rabbia e oggi Libero dedica una pagina a questi gesti di rabbia, cioè risse che scoppiano per piccoli gesti di rabbia, dicendo che però la rabbia tante volte è un modo anche per così per buttare fuori delle emozioni negative, per scaricarsi. A me sembra che in realtà stiamo sempre più impazzendo, nel senso che ci sono delle situazioni in cui da piccole discussioni si degenera poi in risse clamorose. Però Libero dice invece che la rabbia ogni tanto è bene buttarla fuori. Tu come la butti fuori quando magari devi fare uno spettacolo, sei arrabbiato? Guarda, una volta sola mi è successo di sfogarmi, ma dopo lo spettacolo. No, due volte mi è successo. Attenzione, dopo lo spettacolo, vediamo. Allora, una volta ero in un pub di Torino, tanti anni fa, e avevo un impiantino tipo karaoke, sentivano solo i primi due tavoli davanti. A un certo punto prego, fai pure. A un certo punto sono entrati, c'era stato Piacenza-Torino di Coppa Italia, sono entrati una cinquantina di ultras del Piacenza e senza motivo hanno cominciato a fare cori da stadio contro di me. io non potevo neanche reagire perché il mio impiantino serviva solo i due tavoli come diffusione, i due tavoli davanti. Questi sono andati avanti per tutto lo spettacolo a insultarmi, dicendomi le peggio cose. Io sono andato avanti fino alla fine, ma mi sono amareggiato tantissimo, arrabbiato, e rientrando in camerino, che era la cucina, sì, ho cominciato a prendere a calci delle casse di cipolle il proprietario, e poi sono uscito senza farmi pagare. Il proprietario mi ha inseguito e se l'è presa con me. Ti ha fatto pagare le cipolle, ovviamente. Per due motivi se l'è presa con me. Perché dice che l'avevo offeso non facendomi pagare, ma poi anche dicendo che dovevo ripagargli le cipolle. Come l'avevi offeso non facendosi pagare? No, guardi, allora non vorrei offenderla ulteriormente. Mi dia i soldi. Dovevi dirgli così. No, ero troppo amareggiato. Me ne sono andato così dopo aver litigato col e proprietario. L'altra volta? Quindi la seconda? Ho litigato con un signore in prima fila. Perché ad alta voce sei un tipo un po' scontroso e rissoso, però Beh, solo quella volta ho capitato, perché praticamente era in prima fila, continuava a fare telefonate col suo telefono ad alta voce. Allora io sono sceso dal palco, sono andato da lui e le ho detto: non le chiedo di ridere, ma almeno per favore di non disturbare. L'ho preso, l'ho strattonato per le spalle, lui, e l'ho strattonato, sì, sì. Lui ha fatto lo stesso con me, ne è uscito una specie di, perché lui poi mi aveva offeso e così via, ne è uscito una specie di rissa, ho dovuto interrompere lo spettacolo e poi pagare i danni al locale, perché mi hanno detto che avevo rovinato l'immagine del locale. Cioè, tutte le volte ne esci pure cornuto e mazziato, questa è la verità. Va bene, allora, fatti l'auto elettrica, vai in giro in tandem. Peraltro, domenica scorsa stavo per affittare il tandem per andare con mia figlia lungo la Martesana, ma purtroppo l'affitta tandem era chiuso, l'avrei fatto. Quindi io lo faccio liberamente, ma ho una domenica complicata. Oh, allora, mi dispiace parlare dei fatti miei, ma i miei figli dormono fuori Milano sabato sera e poi da amici, non vi interessa sapere oltre, e poi Mattia domenica ha la partita a Milano alle 11. Mi dite io come faccio a far fare il carpooling agli amici che mi tengono i figli fuori Milano per farli venire a Milano per la partita di basket? Ma chi se ne frega? No, invece interessa, Filippo, perché io nel frattempo sono in Piemonte, sabato sera l'ho già detto, vado da Farinetti. Come faccio a rientrare a Milano? Milano entro una certa ora, se c'è il blocco del traffico. Ma cioè, tu pensi di più alla tua serata radical chic da Farinetti o pensi di più all'aria e al traffico di Milano? Diciamo anche le cose come stanno. Io penso di più all'aria ed è per questo che pensando all'aria dico controllate il riscaldamento di tutte le case a Milano, controllate il riscaldamento dei negozi in Corso Buenos Aires o in Corso Vercelli, che c'è una temperatura da mangrovia all'interno per mantenere le porte aperte. Controllate queste cose, fate il doppio degli autobus elettrici, andate in giro, potenziate i tram, e cosa volete da me? Pulite le strade. Il blocco dell'auto. Allora, tutto sto casino perché tu devi andare a fare la tua serata da Farinetti. Ma e guarda, c'è un anche po' la partita di basket di Mattia. Va bene, c'è anche il giornale radio. Dai, ciao. Il segnale orario vi è offerto da Samu Expo, metalmeccanica, plastica e subfornitura. 6-7-8 febbraio, Fiera di Pordenone. Uno, nessuno, 100 Milan. Milan, noleggio un'auto elettrica, 50 euro te la cavi, ciao. Oh yeah. Milan, per un giorno potresti anche non far fare la partita a tuo figlio, non succede niente. Alessandro, ho un consiglio io, camele caretta e tornata a Milan. No, allora, io vorrei essere chiaro per l'ennesima volta. Io quasi sempre al mattino qui vengo in metropolitana. Mica come Manera che c'ha l'autista. No, anche Leonardo Manera viene in metropolitana. No, anche tu, Leonardo, ti sposti in metropolitana, vero? Non c'è. Adesso lo recuperiamo. Quando devo andare in centro, quando mi devo spostare, io domenica, di fronte a questo tipo di blocco del traffico, andrei serenamente in metropolitana. Abito proprio sulla metropolitana, nel senso che se mi butto dal balcone entro nella metropolitana, nella stazione della metropolitana. Il campo da basket della partita è vicino, non vicinissimo, ma a 5 minuti a piedi da una fermata della metropolitana, quindi non avrei nessunissimo tipo di problema. Ma ho già spiegato che i miei figli sono assegrate a dormire. Assegrate, che è fuori Milano il sabato sera, perché io devo andare via adesso, vi state facendo i fatti miei, devo andare via, sono in Piemonte, quindi non è che posso dire anche al mio amico di Segrate: oh, affittati una macchina elettrica, spostati, porta, già mi tiene il figlio a dormire la notte e mi fa una grossa cortesia. Cosa posso fare, ma Leonardo? Io dico che hai detto tutto esatto, tranne una cosa, io credo. Sì. Cioè, tu hai detto che tu spesso hai detto che usi la metropolitana. Sì, io spesso. Non ti ho mai visto, io ho sempre visto in automobile. No, non è vero. Oggi ho preso l'automobile perché poi devo andare a Legnano. Ricordo che solo una volta siamo andati in metropolitana insieme e tu mi hai detto: cos'è questa cosa? Come si prende? Come si prende? Dove quindi si il fatto che tu usi. Non è vero. Ma se il fatto che tu prenda la metropolitana lo hai millantato adesso per farti bello. C'ho l'abbonamento io. I miei figli hanno l'under 14 che è gratuito. Grande. Oh, questo è un discorso interessante. A che età si comincia a pagare l'abbonamento? Perché c'è chi dice 11, no, c'è chi dice 10. No. A Milano, e in questo devo dire, grande sala, grande ATM, c'è la tessera under 14. Cioè fino a 14 anni si va gratuitamente sui mezzi se si è accompagnati. Under 14, hanno la tessera i miei figli. Allora under mi hanno fregato. 14. Mi ha fregato. Perché tu parli? Perché ero con mio figlio, ero andato sotto in piazza. Beh, se non hai la tessera la devi fare, se non la fai paghi, è chiaro. Se non la fai paghi, ma da che età comincia a pagare? Credo da 10 o da 11 anni? Credo 11, ma non vorrei dire stupidate. Ma adesso non sono. Se vogliamo chiamare, chiamala Gaia Carretta. No, perché è andata così. Io ero con mio figlio, dovevo prendere la metropolitana, il biglietto anche per lui. Io ho chiesto a quello che li vendeva: a che età si comincia a pagare? Sì. E lui mi ha detto: suo figlio quanti anni ha? 10. E lui mi ha detto: allora da 10. Allora vorrà dire che sarà così. Da 11. Manda un messaggio alla Gaia Carretta, che è il capo comunicazione di ATM. Adesso le scrivo mentre e te lo faccio sapere. Va bene. Intanto sentiamo Daniela da Padova. Daniela, buongiorno. Buongiorno a voi tutti. Io ho sentito prima quel signore, la telefonata credo l'ultima, che auspicava un passaggio di riguardo alla politica, un passaggio di parlamentari dal Movimento 5 Stelle al gruppo misto. Ecco, non voglio fare considerazioni per una parte o per l'altra, dico solo che questo paese una volta per tutte avrebbe bisogno di un minimo di stabilità, come ho già detto prima quando ho chiesto di poter partecipare, un minimo di stabilità per vedere fatte alcune cose, come quali? Diceva Manera, non quali? Tante. Ne dica due tante. O tre, ne dica due. Ma guardi, io non ho figli, ma come donna vedo che c'è grande difficoltà per i genitori gestire i figli quando si lavora. Non ci sono asili sufficienti, non ci sono agevolazioni di nessun tipo, tutto quello che viene promesso resta sulla carta, non c'è minimo di considerazione anche per le persone anziane, per persone che hanno genitori anziani e che lavorano. Adesso ce ne sarebbero tante, questo, ma ci vuole un minimo di stabilità. Ma in realtà adesso la stabilità, anche se è un po' ballerina con gente transfughi, gente che passa di qua di là, c'è, però insomma la stabilità deve portare poi a delle politiche concrete. Allora adesso Leonardo mi chiedono cosa vai in Piemonte a fare, ma l'ho già detto, sono ospite della Fondazione Mirafiore di Farinetti, di sua sorella, sono molto contento di parlare lì, di vedersi e niente. Sai che mi avevano chiamato per venire come ospite a sorpresa in questa tua serata? No, infatti lo so. Ma io non ci sono perché ho questa serata a Vignola che poi non ho. Ma senti, ma dai buca a Vignola, digli che sei malato e vieni alla Fondazione Mirafiori. Mi avevano contattato, vuoi venire a sorpresa ospite? No, preferisco cercarmi una serata. Cam- Camillo dalla provincia di Varese. Buongiorno Camillo, eccoci. Buongiorno a lei. Sì. Prima di tutto fare i complimenti a Manera, che riesce col suo sacerbo a sopportare lei. Grazie, grazie. Questo è vero, grazie. È uno dei è uno dei pochi, tra l'altro, che riesce a sopportarmi. Sì, penso proprio. Penso che fra qualche mese i suoi figli cominceranno a cambiare idea. Va bene. Anche di non viaggiare più in metro, ma neanche di buttarsi lei, Se no blocca la metro per qualche... No, adesso, buttarsi, non ironizzi questo, su queste tragedie. No, a parte questa ironia per ridere e scherzare, che sono costretto a sopportarvi già tutte le mattine, amorevolmente. Quello che volevo dire, io abito in via Cilea, sì, e ho una macchina vecchia, ho 73 anni, ho degli impegni personali in provincia di Varese e in provincia di Como, sì, e ho una macchina Euro 3 a diesel, sì, e quella bella persona con la testa di carota di sale, la sua giunta, che hanno fatto dell'inquinamento un loro idilio. Beh, adesso non io non posso neanche entrare a casa. Abbiamo misurato tutta la gente del quartiere, perché mi siamo un po' rotti gli orecchini. Sì. Abbiamo la tangenziale nord, quella che arriva a Molino Dorino, lei lo sa perché abita... Vabbè, siamo una radio nazionale, quindi Molino Dorino a Bari non sanno dove sia, però dispiace, però siamo lontano dalla tangenziale nord, 231 metri e 50. Quindi non lei entra l'inquinamento della tangenziale in quartiere? Sì, chiaro, immagino purtroppo per voi di sì. Ma è così, ma è come quando si va in pensione, magari fino a un certo anno di nascita arrivi, se sei nato un giorno dopo, no. Sono i limiti però classici. Camillo, insomma, è questo per dire che non mi sembra di capire e tradurre che il blocco dell'auto non è il massimo della vita, cioè nel senso... No, anch'io avrò questo problema. Ho un conoscente che lavora in comune Palazzo Marino, sì, e lavorano con le finestre aperte perché hanno 26-27 ma infatti gradi. Adesso io non lo so, bisognerebbe, come dire, sono accuse che vanno, accuse insomma, sono questioni che poi andrebbero provate, però devo dire che controllassero, certo loro ti direbbero come si fa a controllare palazzo per palazzo. Beh, intanto controllassero al comune di Milano, se è vero, visto che ci dice che uno che è lì a 26, quant'è il limite? 20 gradi, credo, 20, delle temperature interne. È chiaro che non si può provare ad andare a controllare tutti i condomini e tutti i condomini di Milano. Però, attenzione, però, mi ha risposto Gaia Carretta. Ti han fregato. Lo sospettavo, guarda. Gaia Carretta, capo comunicazione della ATM, 14 comunque, dice l'età per non pagare, basta la carta d'identità. E lì ho immaginato, perché prima il venditore ha chiesto l'età di mio figlio e poi mi ha detto che era... Ma il venditore, neanche il controllo, ma il venditore, ma certo che ti ha fottuto per vendere un biglietto, ma amico mio, direbbe Cruciani. Ma io mi fido dalle persone, allora ho chiesto al venditore. A Milano non pagano i ragazzi, le ragazze, fino ai 14 anni basta la carta d'identità, ma il comune ha deciso di rilasciare la tessera dagli 11 anni in su la tessera. Niente, mi hanno fregato. Perché io ero lì al bar. Niente, t'han fregato, infatti il collegamento salta e zoppica. T'han fregato, dai, richiamaci tra un attimo dopo il traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Buongiorno, per il traffico di Milano ditegli a Sala di fare come fanno nei paesi civili, lavare le strade, lavando le strade si abbatte l'inquinamento oltre il 60%. Sì, ma ce ne sono 50 di provvedimenti alternativi al traffico. Ora mi ha fatto sapere il mitico Giovanni Savarese, da cui staranno i miei figli appunto a dormire a Sagrate, tanto ormai ho detto tutto, cioè, che c'è il pullman sotto casa sua che arriva alla metropolitana di Lambrate. Lambrate è vicino a casa di Manera, dalla metropolitana di Lambrate dovranno poi cambiare sulla linea rossa, poi sulla linea rossa andare verso Gorla. Cioè io dovrei chiedere a un amico che già mi tiene il figlio di fare questa cosa tipo alle 9 del mattino della domenica, ma se non mi manda a fare, Leonardo, tu lo faresti per me? Tu lo faresti per me? No, per te no, però insomma per magari Mattia, per Mattia. Sì, per i figli sì. Cani maledetti, ecco come dici tu. Va bene signori, adesso dobbiamo parlare di questa notizia che ci ha colpito, devo dire. Allora, succede in Valle Scrivia, siamo in Liguria. Allora, cosa succede? Che la polizia a un certo punto becca alcuni giovani, ragazzi, ragazze immagino, che avevano creato una chat su WhatsApp. Con questa chat che cosa facevano? Si avvisavano l'un l'altro dei posti di blocco, soprattutto per evitare controlli dopo le discoteche, magari avevano alzato un po' il gomito, magari bevevano, non lo so, diciamo che si avvisavano: attento, là c'è il posto di blocco, attento, evita quella strada, eccetera. Sono stati mandati davanti al giudice, ma il GIP, il giudice per le indagini preliminari, ha detto non è reato, non è reato, perché non c'è interruzione di pubblico servizio. Saluto l'avvocato Matteo Carpi, buongiorno avvocato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Lei è l'avvocato di questi ragazzi che sono stati denunciati per questa maxi chat. Sarà soddisfatto avendoli, come dire, avendo portato a casa la pellaccia di questi ragazzi, no? Dal punto di vista processuale. Beh, direi che in termini poco giuridici davvero un gran colpo. È un gran colpo. Un gran colpo. Certamente le mie motivazioni, le mie argomentazioni unitamente a quelle degli altri splendidi colleghi con cui abbiamo assistito i 49 di questa chat, sì, hanno avuto un grosso peso, unite oltre anche alla lungimiranza comunque del giudice, il quale ha interpretato la norma dell'articolo 340, ovvero l'impedimento di pubblico servizio, sì, in maniera puntuale e precisa, ma anche dietro e rispetto ai dettami della Corte di Cassazione. Però la mi scusi, sì, avvocato, va bene, cioè, lei giustamente li ha difesi con altri colleghi tecnicamente e dal punto, sì, di vista tecnico ha avuto ragione. Certo che dal punto di vista dell'insegnamento, cioè, ho scoperto che in questa chat dicevano anche insultavano le forze dell'ordine, no? Ai loro invettive, sì. Ai loro invettive, sì, invettive. Quindi invettive e attenzione a evitate i posti di blocco, soprattutto magari se avete bevuto un po'. Insomma, vero, cioè, tutto vero, tutto vero, però dobbiamo riportare il ragionamento sulla base critica degli aspetti penali della vicenda, nel senso che parlando di una chat rigorosamente privata, sì, rigorosamente limitata nel tempo e nello spazio, nel vero, sì, non è reato, solo per 5 mesi e soprattutto localizzabile solo per una determinata zona ristretta come quella della Valle Scrivia, sì, il reato così come contestato non c'è. No, ma infatti questa è la difesa tecnica e il giudice vi ha dato ragione. Lei si è posto, non so, lei è padre, se posso chiedere. No, non sono papà, ma io abito in Valle Scrivia. Si è posto la questione così, finito il processo che non c'è stato, finita il dibattito, se si è posto una questione morale a dire, vabbè ragazzi, però si dovrebbe non bere invece che bere e segnalare poi dove sono i posti di blocco. Pacificamente e non posso che dirvi sì, lei ha perfettamente ragione. Tuttavia ritengo che questa vicenda per i disgraziati partecipanti e protagonisti sia stata di grande insegnamento, anche perché ragazzi di età compresa tra i 18 e i 22 anni che si vedono convocati in caserma pacificamente gli vengono tirate le orecchie dagli operanti perché sicuramente non gli hanno fatto un applauso, io ritengo possa essere più di insegnamento di altro, rispetto a un'ipotetica condanna che un diciottenne poi si trova. No, no, ma è chiaro. Allora, io non so cosa ne pensi Leonardo Manera adesso, se vuoi Leonardo... Ma l'avvocato mi sembra molto ottimista in merito, nel senso che poi il fatto di essere convocati induca in loro così un atteggiamento diverso. Una lavata di capo ci sarà stata, ecco. Sì, poi magari bisognerà verificare in futuro. Magari i genitori si occuperanno di questa cosa, di verificare. Ecco. Sì, ecco, questo è auspicabile. Tra l'altro arriva un messaggio, Milan, guardate che di queste chat ce ne sono, vabbè, ci scrive un milione. Però noi, avvocato, se ci permette, abbiamo chiamato un amico che è spesso qui, è un amico nostro, oltre che presidente dell'associazione Amici della Polizia Stradale, Giordano Biserni. Buongiorno Biserni. Buongiorno, perché qui, insomma, allora, dal punto di vista tecnico ce l'ha spiegato bene l'avvocato, non è reato, era una chat non pubblica, quindi non c'è un'interruzione di pubblico servizio, è stata limitata nel tempo, nello spazio, insomma, il giudice è stato lungimirante, dice l'avvocato, punto. Basterà questa lavata di capo, Biserni? No, non basta. Lei intanto ha detto ha portato la pelle a casa. Tanto la pelle a casa bisogna portarla anche quando poi si guida con la macchina ubriachi. Il problema, vede, non è tanto la sentenza del GIP che ha stabilito questa, formula del non reato, a parte gli insulti che mi nascono perplesso sulla WhatsApp. È giustissimo, per carità. Il problema lo sa qual è, Mina? Che in un paese che condivide sul territorio la presenza delle mafie, che comunque è a rischio terrorismo, che dove dilaga lo spaccio, il commercio, l'ubriachista, la guida, ha il record dei furti in appartamento, ci siano poi centinaia di persone che sentono l'esigenza di creare gruppi WhatsApp per fregare la polizia, senza pensare che prima o poi fregheranno loro stessi e la loro famiglia. E questo è che mi deprime molto. Io non entro nel merito, giustissimo, per carità, ha portato a casa un ottimo risultato. Qui poi dovremmo metterci d'accordo con noi stessi, sa perché? Esistono centinaia di gruppi, dicevano gli ascoltatori, è vero, esistono centinaia di gruppi come nella mia città, gruppi che di segnalazione e vigilanza dei quartieri che non sono le ronde. Sì, quindi gruppi no, esatto, come dire, contrari che, al esatto, senso... che si allertano per le facce sconosciute, le persone sospette, per contattare subito polizia e carabinieri e poi vediamo, quindi per allertare... No, ma è chiaro, di allarme sociale. No, ma è chiaro che c'è un aspetto tecnico. Dopodiché, però, effettivamente la domanda: io non vorrei mai succedesse, non succederà. Però anche lei, avvocato Carpi, che dice vivo in Valle Scrivia, dovesse mai, e speriamo che non accada, capitare un incidente con uno di questi ragazzi coinvolti in questa chat che magari investe una persona ubriaco. Cioè uno dice, cavolo, però forse altro che fare le chat per sapere dove sono i controlli, forse era meglio... Mi permetto di farle una contestazione, se me lo consente, nel senso che lei mi dice, immaginiamoci che uno di questi ragazzi faccia un incidente ubriaco, il fatto di essere all'interno o meno di questa chat poco rileva, secondo me, all'essere o meno ubriaco e fare un incidente. No, vabbè, ma non come legame, però forse se fosse stato educato a non a fare le chat per dire evitate i controlli da ubriachi, ma dire guarda, forse che non devi bere quando sei alla guida... cioè io non mi metto a fare una chat, cerco di responsabilizzarmi sul problema invece di aggirarlo. Mi auguro che questa vicenda abbia responsabilizzato i soggetti e io ne sono quasi certo, posto che loro unitamente ai familiari e ai genitori hanno dovuto comunque sottostare a determinate spese, sottostare a determinate preoccupazioni, eccetera, eccetera. E quindi credo che i genitori qualche tiratina d'orecchio li abbiano altro fatto. Altro che, io ho parlato con molti genitori di questi ragazzi, i quali hanno espresso non tanto come si fa oggi a scuola, ma è colpa di è colpa di mio figlio che si è permesso di fare una cosa del genere e sarò molto attenta a valutare il suo comportamento futuro, quindi questo è già come dire, non so, bisogna Io mi stupisco perché poi sono sicuro che quegli stessi genitori e quei ragazzi, nel caso in cui la loro macchina venisse strisciata da qualcuno che magari è ubriaco o non ubriaco, non osserva il codice della strada, gli porta via lo specchietto, sarebbero i primi a correre dalla pattuglia della polizia, dei carabinieri, della polizia locale per invocare l'intervento immediato per la loro lesa maestà della loro vettura. Insomma, Biserni ci sta dicendo che ci vorrebbe un po' più di rispetto invece che bisogna spiegare che il nemico sulla strada, mi scusi avvocato, mi scusi Mina, il nemico sulla strada non porta la divisa, attenzione, il nemico sulla strada è l'ubriaco, il drogato, è quello che va a fare i furti nei nostri appartamenti, quello che spaccia, è quello che va a fare le truffe ai nostri anziani, e noi con questa modalità avvertiamo comunque, specie per quelli che lampeggiano, non tanto nelle WhatsApp, perché c'è anche il lampeggio sociale, attenzione, in questo paese, c'è il lampeggio, la più grande forma di solidarietà nazionale è il lampeggio per avvertire della polizia. Ecco, che però si usa meno di una volta, si usa meno di una volta, ma si usa forse nelle statali, nelle magari non certo, si usa, nelle statali soprattutto, nelle autostrade certo no, ma nelle statali ancora vedo spesso che ci avvertono, questo è veramente andare contro il concetto di legalità. Secondo il mio modo di vedere, poi il GIP giustamente non è reato. No, no, ma è chiaro, il GIP, infatti c'è un aspetto tecnico e su questo l'avvocato Matteo Carpi ci ha spiegato bene, hanno ottenuto un successo professionale, e c'è l'aspetto tecnico e etico, ecco, mettiamolo così, se possiamo introdurre questo aggettivo. Vabbè, noi vi dobbiamo ringraziare, Leonardo, che dobbiamo dire a conclusione di questa storia? Ma ha colpito, perché effettivamente... È uno dei classici casi in cui il diritto non collima col sentire comune, insomma. Sì, o col sentire comune di tutti, questo certamente. Comunque ringraziamo l'avvocato Matteo Carpi che ci ha spiegato, facendo il suo lavoro, come è riuscito a far non mandare a processo questi ragazzi insieme ad altri colleghi, erano 49 in questa chat, e Giordano Biserni. Oh, c'è un losco figuro che si aggira qui accanto a Filippo Aureggi, indovina un po' a che nome e cognome risponde questo losco figuro. Non ne ho la minima idea, guarda, tutto questo malattia che è dentro di me non mi fa immaginare che Mauro Meazza ci sia lì in regia accanto a Filippo Aureggi. Ah, va bene, capisci, però che subito losco figuro, tu sei partito così, insomma. Ma sai che lui secondo me sta speculando anche su questo coronavirus, l'ho visto investire dei soldi in case farmaceutiche. Allora ieri sono andato in farmacia a chiedere delle mascherine, ho detto mi porto avanti perché sicuramente arriverà anche in Italia il coronavirus. E forse in Germania, quindi dici. Ma è sicuro, no, che arriverà in Italia, come prima diceva l'allarme moderato, adesso l'allarme alto, adesso arriverà tra poco anche in Italia. Ho detto mi porto avanti, vado a comprare un po' di mascherine in farmacia. E il farmacista mi ha detto non ce n'è, dico come mai? Ma ne ha fatto incetta un signore che si chiama Mauro Meazzo per rivenderle dopo. Ecco. Vabbè. Perché lui l'ha dichiarato, mi chiamo Mauro Meazza, voglio speculare rivendendo le mascherine. Le ha ordinate online, dopo quando, ormai Mauro Meazza comincia a essere conosciuto, si sa che quello che fa lui è sempre a un fine economico, quindi... Guarda questo che mi suggerisce questa, caro Milan, non fare il barbone, vai in concessionaria e compra una Tesla pronta consegna, no? Sì, per risolvere il blocco del traffico domenica, sì sì, certo, e vado a comprare. Questo lo farebbe Mauro Meazza, per esempio. Mauro Meazza anzi mi dice, mi fa capire se vuoi un prestito per comprarla. Secondo te a che percentuale poi di strozzinaggio e di interessi me lo fa, Leonardo? È quello che adesso lui usa normalmente, il 55% è arrivato. Dai, andiamo a sentire la borsa. Uno, nessuno, 100 Milan. Piazzare autovelox a destra e a manca tanto per fare cassa, non è reato? No, vero? Buongiorno Milan, per andare da Milano a Torino hanno inventato anche i treni, rapidi e molto gradevoli. Milan, ma chi se ne frega dei problemi tuoi del traffico? Preferisci in un'altra città, ma chi se ne frega veramente? Allora, chi se ne frega veramente? Allora, signori, siamo qui alle 10:38 minuti. È incredibile a dirsi, ma c'è una pantera. No, ma prima della pantera voglio salutare Carla Rocchi, amica, presidente dell'EMPA, Ente Nazionale di Protezione Animali. Ciao Carla, come stai? Bene, io bene. Stavo guardando questa notizia che mi ha passato Lorenzo Nespoli, che su Amazon vendono i cilindretti di silicone da mettere alle zampe dei gatti che fanno magari le unghie sui mobili, sui divani. Io ho un grave problema con questo, avendo due gatti, Zen e Mojito, e sono abbastanza fastidiosi in questo, mi hanno rovinato tutto il divano. Stavo pensando giustamente di questi bei cilindretti. Guarda, io non ti posso dire È una provocazione. Quale uso consiglio dei cilindretti a questi di Amazon? Non te lo dico per decenza, per fascia oraria e per, e per quant'altro. Era una provocazione, non glieli metterei mai. Ma no, mi sembra veramente di ingabbiarli, incarcerarli. Questa deve essere qualche trovata. Allora, siccome io non voglio dire, ma deve essere qualche genio. Non posso connotarla, come posso dire, non posso connotarla come provenienza, perché pare brutto, però i miei medici sono tutti, comunque li abbiamo scritti ad Amazon per quello che conta e gli abbiamo detto che fanno, tanto per cominciare, io che già non ero una grande utente, adesso finché non li vedo rimossi io da Amazon non compro più un macuno spillo. Perché ci sono questi cilindretti che si applicano alle zampe, però attenzione, io voglio salutare il sindaco di San Severo di Foggia, Francesco Miglio. Buongiorno sindaco. Buongiorno. Guardi che l'ascolta la presidente dell'Ente Nazionale Protezione Animale. C'è un problema dalle vostre parti. C'è una pantera nera. Giuro, io non ho letto. È vera pantera nera grossa. Anche Manera conferma. Sindaco, intanto lei non l'ha vista? No. Assolutamente no, no. Non l'ho vista. Non però l'ho ci vista. Sono video, testimonianze, voci che sia addirittura fuggita dalla casa di un boss, non so, leggende. Sindaco, che succede? Sì, è chiaro, molti video che sono stati messi in rete, molti sono dei falsi, quindi diciamo che c'è stato qualche burlone che si è divertito e quindi diciamo che anche non tutte le testimonianze, non tutti gli avvistamenti da quello che è trapelato sono veritieri. Ci sono alcuni invece che hanno dato elementi abbastanza concreti, sono stati visti comunque anche delle orme, sì. Però pare il condizionale d'obbligo è che da un po' di giorni abbia abbandonato l'agro di San Severo e gli ultimi avvistamenti riguarderebbero il Gargano, cosa abbastanza preoccupante perché lì le ricerche diverrebbero un attimino più difficoltose. Ho capito. Ma che vuol dire una pantera? Cioè, scusi, adesso stiamo parlando del fatto che ci potrebbe essere una pantera, ma da dove sarebbe spuntata sta pantera? Questo non glielo so dire con certezza. Alcune voci, come quelle che lei ha riferito, sembrano essere le più accreditate. È fuggita. Potrebbe essere, esatto, qualche diciamo cittadino, definiamolo così, sì, sì, che l'abbia allevata. Questa sembra un'ipotesi che mi sembra essere accreditata, sì, sì. Poi è chiaro che la certezza non si sa, si sa neanche la certezza che esista, però Carla, guarda che l'hanno visto, c'è gente che ha detto che gli è saltato sul cofano della macchina. Come no, gli ha dato anche i baci, ma ve la ricordate? Voi siete pischelli, ma vi ricordate quando all'inizio degli anni 90 a Roma c'è stato il movimento universitario della pantera? Sapete com'è nato? Certo. Era stato detto, se vista una pantera via Nomentana, che nessuno aveva visto, due pubblicitari dell'epoca, spiritosi, dissero la pantera siamo noi. Ma qua ci sono i video, il sindaco so che ha fatto anche un appello, credo sia appellato al santo, non lo so, al patrono. Sì, assolutamente, perché mi inserisco in questa cosa che è stata da parte mia ironica, a sdrammatizzare. Un clima di paura che di paura. Si stava pare che ci sono e quindi, ma siccome ci sono anche i video dei discivolati Cioè tu non ci credi, Carla Rocchi non ci crede, dice finché non vede Io dico questo, potrebbe anche essere perché poi è pieno di buon temponi che a casa invece che tenere il gatto e il cane si sentono muy fighi a tenerci animali e lì magari esotici, un controllino non guanterebbe però secondo me, siccome sta pantera viene fuori ogni tanto, anche un paio d'anni fa venne fuori che a Roma c'era sempre la famosa pantera, che se fosse quella sarebbe la bisnonna della pantera che non c'era, la pantera che non c'era, quindi secondo me la pantera non c'è, non c'è. Smentite. Però intanto so che Leonardo Manera ha annullato tutta la tournée del Gargano, ha detto non che no, è vero. Leonardo non se ne fa scappare una per non lavorare. Non è vero, Leonardo. Leonardo è la ormai grande, danno è fatto. Anche Carla Rocchi ha capito come è fatto. Leonardo. Ormai il danno è fatto. Si è diffusa questa immagine di me che è un grave danno, un grave pregiudizio. Querelami che mi appello all'avvocato di prima che mi ha fatto assolvere. L'avvocato, sì. E effettivamente sì. Manera, no, è vero, tu Manera saresti già terrorizzato da da questa idea della, della io sì. Che una fa volta rima sempre... Manera la pantera nera, ma esatto. Questa è una storia bellissima. Manera la pantera, c'era Baghera la pantera. Baghera la pantera nera di Manera. Sì. Pensa che una volta, a proposito di animali esotici, mi hanno fatto tenere sulla spalla una iguana e io già ero terrorizzato dall'iguana, figuriamoci. Sindaco, ma davvero adesso ci faccia capire quanta percentuale c'è di verità nei video che sono stati diffusi, eccetera. Come, cioè... come dicevo, molti sono dei fake, quindi diciamo che... Ma c'è qualcuno davvero... Invito anche gli ascoltatori a non alimentare, diciamo, questo clima di paura e di terrore, perché come diceva lei, diciamo, non c'è la certezza dell'esistenza di questo felino. Potrebbe anche essere un cane corso o un animale di grossa taglia. Quindi allo stato diciamo, ci sono degli avvistamenti, gli ultimi sul Gargano, però non sappiamo, come dice lei, almeno le ultime notizie, se si tratta di una pantera o di animale di grossa taglia, ma che non è una pantera. Non so, sindaco, intanto la ringraziamo. Carla Rocchi, che dobbiamo fare? Ah, se la incrociamo, che facciamo? Facciamo, che facciamo? Le spariamo in testa, ovviamente, le spariamo, la battiamo. Che dobbiamo... Ma quante, allora, quante notizie ci sono di persone aggredite e smaciullate da una pantera in sì, Italia? Effettivamente, quante ce n'è? Pochine. Quante notizie ci sono di gente sparata da cristiani bipedi e morta? Quante ce ne sono? Non voglio aprire una polemica. Fate però se metti se insegni alla pantera andare al poligono di tiro, magari impara a sparare. Guarda, la pantera non c'è, e se com'era, non c'è, e se c'è è come se non ci fosse, perché la pantera, ma ammesso che ci sia, se ne sta ben lontana dall'unico vero grande pericolo che siamo noi. Che siamo noi? Ma che sarà allora? Un cinghiale? Un cagnone? Ma sarà un gattone? Sarà un gattone, mamma mia, no! Ci sono dei... sarà un cane, un randaggio, povere creature, che in quella zona è pieno di randaggi, che invece che preoccuparci della pantera ci preoccupassimo dei cani, ci farebbe bene alla salute. Andiamo così. E allora un grande saluto alla grande Carla Rocchi. Però, a voi cari, vi grazie, abbraccio. Grazie Carla. Leonardo, insomma, è così. La Vulgata dice sempre di non scappare. Se vedi un animale potenzialmente pericoloso, stai fermo. Perché se scappi io non so se starei fermo, però di fronte a una pantera, io non lo so, cioè come fai a star fermo di fronte a una pantera? Perché dice che se scappi poi ti rincorre e ti sbrana, invece se la stai lì, stai ferma, anzi le sorridi, le dai una carezza fai amica pantera. Come dicono che con gli squali, per esempio, se uno squalo ti assale, non devi scappare, devi dargli un pugno oppure uno schiaffetto sulla guancia. Certo, un pugno anche in mezzo agli occhi, un buffetto. Traffico. A parte che uno muore prima di infarto, comunque. Vabbè. Uno, nessuno, 100 Milan. Beh, ma è abbastanza plausibile che questa pantera sia scappata dalla casa di qualcuno. Un mio amico 20 anni fa nella bassa veronese teneva 2 tigri. Poi le hanno sequestrate, perché ovviamente tenere 2 tigri, perché finché erano piccole, vabbè, dopo cominciavano a essere pericolose. Cioè, una di quelle vulgate che gira è che si possa essere scappata, se esiste questa pantera, dalla casa di un boss della zona, voglio dire. C'è chi tiene dei gattini e chi delle pantere, magari. Vabbè, però. Al Pacino aveva. Aspetta un attimo, che devi ricollegarti, Leonardo, perché metti giù, perché ogni tanto va e viene il collegamento. Anzi, caro Leonardo, metti giù tu, perché credo che si debba collegare con noi il clown Neronello, insomma, che è venuto a ritrovarci, ricordiamo, ex imprenditore Carlo Nero. Chi ci chiede, ma il clown Neronello ha un nome come Carlo Nero, giusto? Imprenditore, buongiorno. Purtroppo oggi anch'io sono un po' raffreddato, come Leonardo Manera. Ah, che incredibile coincidenza. È una coincidenza, ma oggi non vorrei raccontare tutta la mia vita, come faccio in altre occasioni, ma solo raccontare una favola. Oh, ma sono le favole nuove? Quelle nuove? Questa favola si intitola La bella addormentata con Pinocchio. Scusi, La bella addormentata? Vabbè, ascoltiamo. Tanto tempo fa, così tanto che non si erano ancora formati i Pooh, nacque in un lontano paese una bella principessa di nome Melatonina. Il re e la regina, Baronzio e Savoldella, diedero in suo onore una gran festa con un gran banchetto pieno di arrosti, selvaggina e piccioni imbottiti. partiti. Parteciparono tutti gli abitanti del regno tranne i vegani. Il re e la regina invitarono anche le tre fate buone, Arena, Pistilla e Godzilla, che dovevano far da madrina la bambina, ma dimenticarono di invitare Rosicona, la strega bisbetica. Costei, per vendicarsi dell'offesa, apparve durante la festa e maledisse la principessina, dicendo: «A 16 anni ti pungerai con il fuso di un arcolaio e morirai». Ma nessuno si preoccupò, perché nessuno sapeva cos'erano il fuso e l'arcolaio. Una delle fate buone, Godzilla, attenuò il maleficio dicendo: «Non morirai, ma ti addormenterai e solo un bacio d'amore potrà svegliarti». Le altre due fate buone non dissero nulla perché erano uscite a limonare con dei giovani del paese. Solo Godzilla non aveva trovato nessuno con cui limonare. Il re, per prudenza, ordinò che tutti gli arcolai del regno venissero distrutti, ma nessuno distrusse nulla perché nessuno sapeva cos'è un arcolaio. Ma il re pensò: «Io così ho la coscienza a posto e mia moglie non mi può rimproverare nulla». Intanto la principessina cresceva bella, brava, anche se con una voce terribile che infastidiva tutti gli abitanti del regno. Per non sentirla più parlare, un giorno il re le disse: «Vai, vai a visitare le parti più remote del castello». E lei, ignara, giunse in una stanzetta del castello dove trovò una vecchietta che filava. La fanciulla non aveva mai visto un arcolaio e appena prese in mano il fuso si punse e cadde in un sonno profondo. Nello stesso istante anche tutti gli abitanti del regno caddero in un sonno profondo. 100 anni dopo, Pinocchio, attirato da... Pinocchio! Prego, prego! 100 anni dopo, Pinocchio, attirato dal gran russare che proveniva da quella zona, capitò per caso nel castello abbandonato, vide la bella fanciulla addormentata e, sperando che lei non si svegliasse, la baciò. Melatonina invece si destò immediatamente e chiese a Pinocchio se era un principe. Lui, che era abituato a dire bugie, disse: «Sì, sono un principe». Allora lei rimase sveglia, ma denunciò Pinocchio per stalking. Pinocchio andò in prigione in attesa che la fata turchina andasse a liberarlo. Ma la fata turchina non andò mai a liberare Pinocchio e Pinocchio rimase lì in prigione. La principessa Melatonina, ormai sola, si buttò da una rupe nel mare, ma venne inghiottita da una balena. Lì nel ventre della balena incontrò Geppetto. Allora pensò: «Non sarà un principe, ma è pur sempre un uomo in carne ed ossa e non un burattino di legno». Melatonina fece l'amore con Geppetto. Geppetto non ritrovò mai più Pinocchio, però almeno per qualche minuto non ci pensò. È finita. La morale della favola, cari bambini, è che i figli sono importanti, ma hai di meglio da fare qualche volta e ai figli non ci pensi più. Vabbè. C'è un po' di confusione in queste favole. Mi sembra di capire, caro mago Neronello. C'è un pochino di bizzarria, di simpatica bizzarria. Io vorrei sottolineare i nomi: Melatonina, Salvoldella, Baronzio, Pistilla, Baronzio. Godzilla. Questa favola finisce bene per Geppetto. Geppetto alla fine, sì, nella balena riesce finalmente a coronare il suo sogno d'amore, anche perché penso che nella balena non avesse molte altre alternative. Sì, ma voglio capire come nasco. Cioè, sono favole davvero che affondano nelle radici della cultura tradizionale o... si è preso un acidino lei, caro mago, e ha mischiato un po'. È arrivato il momento di svecchiare le solite favole, quindi prendiamo le favole tradizionali, le uniamo e vediamo cosa ne esce. Questo è naturalmente per rallegrare i bambini, quei cani maledetti, ecco, che vengono ai miei spettacoli. Va bene. Noi la ringraziamo molto. Se incrocia Manera, gli dia qualche confortino dal punto di vista del medicinale, che così magari domani sarà dei nostri. Va bene, caro mago? Ci troviamo domani alla solita ora. Potete scriverci alla mail 100milan@radio24.it. Se sapete anche dei suggerimenti pratici sulla questione di domenica a piedi, pratici, diteceli. Uno, nessuno, nessuno, 100 Milan. Thank you.